uscendo del radio. Non stai uscendo del radio. Non stai uscendo del radio. Cambia il microfono. Ebbene, non esci? Qualche problema hai? Ma non funziona la radio o non hai voglia? Dai un colpo di, due colpi di portante se non hai voglia. Non esce il radio. È muto, non c'è niente. Problemi di radio? No, se non parli non posso capire. Ma Luca sei? Dimmi se sei Luca almeno. Se sei Luca, tre colpi importanti. Non sei Luca, ho capito. Walter, sei tu per caso? Non stai uscendo? Sei tu? Non stai uscendo dal radio. Niente radio. Niente radio, niente. Walter, ma sei tu sì? Niente radio. Pino, ma sei tu sì? Pino, dimmi se sei tu. Metti un colpo di portanza se sei tu, Tino. Attento Gianni, ci sei? Niente radio. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Ciao Gianni. Ciao Giulio, e allora, buongiorno, dai, ho provato a accendere, dai, ero al cimitero, adesso sto uscendo, e devo andare a Canica a fare un po' di gas. Ok, infatti ti avevo appena chiamato già, per cui va bene così. Hai fatto il tuo dovere, sei andato a fare visita ai defunti, va bene così. Certo che sì. Di tanto bisogna fare anche quello, non c'è problema. Molta gente c'era, no, ci metterò. Ma non più di tanto, io ho trovato il parcheggio al Carrefour e poi ho attraversato, perché dentro il cimitero parcheggio non ce n'era. Beh, dentro non è che ci sia molto spazio, dunque se tutti entrassero dentro, tutte le persone, allora vorrebbe dire un campo grandissimo, ma siccome è piccolo, dentro non c'è niente da fare. Vabbè, dietro Carrefour va bene. Infatti era a due passi, il più è attraversare lì perché è pericoloso, bisogna stare molto attenti, perché lì ti gattigheggiano, diciamo, stai attento. Lo so, lì ci sono i pirati che quasi ogni giorno ne investono uno, io lo so, sì, lì corrono come pazzi. Adesso sto andando verso Canica, dai. Ti sento un po' basino perché qua è tutto coperto, dai, dai palazzi. Sono dentro il Carrefour dove c'è l'uscita nel retro, dai. Ho capito. Vabbè, già ti sento, io già ti sento, non c'è problema. Gaba. Adesso era un po' che non usavo questo apparecchio, dai. Perché non c'era mai nessuno, quindi è sceso un paio di volte, boh, non sentivo mai nessuno, adesso oggi ci provo, tanto non devo andare a fare la spesa, posso mettere l'antenna, perché se devo fare la spesa l'antenna parcheggio non la metto mai. Ok, un attimo l'amico della portante, che non stai uscendo, forse non sei già Gianni che stavo parlando. Sì, ho capito Gianni, e lo so, in questi giorni c'è silenzio tombale proprio in frequenza, intanto io accendo, non sento nessuno e poi chiudo subito, intanto cosa so fare lì, ad ascoltare il rumore di fondo, no, non mi va. No, ieri c'ero io, però ero in FM con Gavino di Porto Torres e con Franco, capito? Sul canale 12 in FM. Lo so, alcuni giorni c'ero anch'io lì con loro, ma di solito loro non vanno, sì, lo so che vanno molto spesso anche in FM, comunque, ma fanno prove, fanno dei QSO improntati quasi esclusivamente su prove, quando sono Gavino e Franco, provano tante cose, capito? Antenne, radio, microfoni, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque l'FM è sempre meglio, è troppo buono. buona come frequenza all'FM. Ieri era una telefonata giù, non c'era un filo di QRM, nulla, proprio niente, una telefonata. Lo so, l'FM la modulazione è chiara, però è meno lunga, secondo dove sei non riesci a recepire niente. Va bene, comunque va bene, non c'è problema, ma essendo in città a breve distanza già va bene a fare il collegamento così. Sì, va benissimo, dai. Va bene, sì. C'è un amico qua che di tanto in tanto manda la portante qui a fondo scala, però non esce nel radio, ma io infatti lo stavo seguendo e dandogli l'indicazione che non usciva nel radio, forse sta montando qualche microfono, non lo so, e non so nemmeno chi può essere, ma è circoscritto perché i segnali di fondo scala qui sono due o tre, non di più, per cui tra quelle tre persone c'è sicuramente. Infatti ho chiamato, gli ho detto anche vai due colpi di portante se sei il tale, ma niente l'ha fatto, non ne hanno fatto, forse vuole rimanere anonimo, non capisco perché. Ecco. Ciao Natalino! E finalmente mi avete sentito, cazzo, ho fatto due volte il break e non mi avete sentito. No, non sei uscito, è diverso. Come non sono uscito? Io esco sempre. Non hai premuto bene la portante forse? No, è perché avevo 2 watt, adesso ne ho 15, capito? Ecco perché. Ma prima con 2 watt ti sentivo da ogni parte, boh. E infatti sono meravigliato, ho breccato 2 volte e non mi avete sentito, adesso rimetto a 2 watt a vedere se mi sentite. A carica è tutto chiuso. E oggi è festa, ma mi sentite adesso che ho 2 watt? Ehi, ti sentiamo. Magari stavamo parlando io e lui, in contemporanea con lui, ha schiacciato e... Ma... Quindi vuol dire che già stavo uscendo poco fa, poi lo vedevo dallo smitter che uscivo. Anche adesso stavi parlando sopra di me, ma non mi senti? Mi hanno messo la portante, non lo so io. Vabbè, comunque, ci siamo accavallati lì. No, perché c'è uno che sta facendo delle prove, forse sta piazzando qualche microfono, ma a quanto sembra non è stato ancora capace di mettere i collegamenti giusti, perché la portante ne arriva a fondo scala qua, però non arriva nessuna modulazione. Ma cosa vuoi ti dica? Magari l'ha messa quando stavo breccando io. Può darsi anche, non lo so. Può essere. Vabbè, dai. Vediamo un po' se questo amico riesce a sistemare la questione. Vediamo se riesce a farsi sentire. Avanti l'amico che di tanto in tanto manda la portante senza radio. No, non ne ha voglia, no, Natale, non ne ha voglia. Ha detto che è stanco, per cui no, non ne ha voglia. Gianni, sei arrivato al fornitore? Sì, ma è tutto chiuso, non mi ero ricordato che era festa oggi, Giulio. Non me ne sono ricordato. E vabbè, dai, ci vado un altro giorno, tanto già ce l'ho ancora. Ok, allora già va bene, dai. Ci vai domani non è festa. Che poi io avrei preferito che fosse festa anche domani, perché non riesco a capire per quale motivo dobbiamo onorare solo la giornata dei santi e non quella dei morti anche. Qui si è considerato che in famiglia tutti noi abbiamo dei morti, abbiamo avuto dei morti, per cui per me io l'avrei fatto festivo, anche il giorno dei morti, invece si lavora. Vai, resta lì. Infatti, non è una cosa tanto giusta secondo me. No, non è giusto, secondo me non è giusto. Va bene che c'è qualche imbecille in Italia che sta dicendo che vuole togliere il nome di Natale, la festa di Natale, vuole cambiare il nome al Natale, vuole cambiare, mi viene di niente guata in questa Italia, ma la mattina di tanto in tanto qualche deficiente si alza dal letto e spara una cretinata. noi purtroppo siamo in Italia, capito? Negli altri paesi non succedono queste cose, qua solo in Italia succedono. Adesso giusto ti sembra che un'impegnativa debba durare 10 giorni solo, per poco perdo la visita per colpa dell'impegnativa perché dura 10 giorni. Mi ha dovuto fare un'impegnativa nuova e ritelefonare, torna al cucù, e meno male che quell'appuntamento era libero, se no avrei perso la visita. Hai visto, ti stavi facendo la testa prima di aver la rotta, Natali, visto, te l'ho detto che ce la facevi. Sì, te l'ho detto che ce la facevi, se la pigliava qualcun altro mi dicevano che non c'era disponibilità, in tutta la provincia non c'è disponibilità, solo lì a Porto Torres, e basta, per quella visita che devo fare io. Sì, vabbè, vai a Porto Torres, tanto già non è lontano, già va bene. Se sono io 5 mesi che sto cercando di prendere appuntamento, la visita più vicina è aprile, ti puoi immaginare, e io invece la dovrei fare i primi giorni di gennaio, per dirti, no, boh, è una vergogna, è una vergogna, ma comunque non migliorerà la situazione, chi lo sa. E peggiorare può. Non lo vedi che la sanità è allo sfascio? La sanità è allo sfascio, ma è soprattutto allo sfascio chi ci lavora all'interno degli ospedali, perché ci vuole più impegno, ci vuole, invece no. Tu spiegami una cosa, come mai in un reparto dell'ospedale di Striscia Bianca ci sono 262 persone in attesa di essere operati, e non riescono a ne operarne uno, però fanno 40 operazioni sempre nello stesso posto a pagamento, spiegami come mai, è questo il problema, non vedono altro che soldi questa gente. E infatti, solo i soldi, oltre che ci sono pochi medici e concorsi non ne fanno, cioè hanno chiuso il numero, hanno fatto a numero chiuso gli ingressi all'università per la facoltà di medicina, ma dimmi tu, già non fanno concorsi, poi magari uno riesce a laurearsi e non riesce a trovare lavoro. E ce ne devi fuggire dai nobili, perché se ne fuggono. Ma se anche oggi, sul giornale di oggi, oltre 100 medici ce ne sono andati tutti in Arabia, boh, io non lo so questa gente. E poi, ma quando mai il medico che ha studiato, che è diventato medico, non ha intrapreso quel mestiere per l'umanità? Invece no, sono barilinati, ma è una vergogna, ragazzi, è veramente una vergogna. O perlomeno ti mandano all'ufficio privato, così a Roma devi pagare sempre di tasca. È veramente vergognoso, guarda, veramente. Vergognoso solo, lui. E ci sono dei bravi medici che non riescono a trovare lavoro, ma dimmi tu. Perché non fanno concorsi, non fanno niente, e i medici ci vogliono, perché ce ne sono pochi, non so quante migliaia di medici servono. Lo so, così dicono, però io dico questo, spiegami quello che ti stavo dicendo, come mai che ci sono 262 persone in attesa di essere curati, operati, e non riesce a operarne uno, perché dicono che non ci sono i medici, però gli stessi medici di quel stesso reparto fanno 40 operazioni al mese, tutti a pagamento, spiegami come mai, a pagamento c'è lo spazio e il posto, e mentre invece per la sanità non c'è nemmeno uno di posto. Oh yeah. C'è la mafia, non hai capito che c'è la mafia? Buon Natale! Sono delinquenti, io li chiamo delinquenti quelle persone lì. È una vergogna. Gianni, dove sei arrivato? Gianni forse è sceso dalla macchina per fare benzina. No, doveva fare il gas per la macchina. E lo fa un altro giorno, ha detto, magari è sceso per qualche altro motivo. Gianni, ci sei? Sì, è sceso dalla macchina, poi è arrivato già a casa, e ha parcheggiato, però non c'è, rientrerà. E se ne ha voglia, sì. Viaia. Gatta, se ne stavano ridendo l'altro giorno perché gli dicevo che era un canale di murchi e delle persone si mi recappa dalla risa. E perché non c'ho ragione? Non c'è mai nessuno qua, tutti morti sono, gli dicevo. E infatti domani è la festa della 27 di Sassari. Domani è la festa proprio della 27 di Sassari. Tutti i morti. La festa di questo canale. È la festa di questo canale, che prima era un canile, adesso che è diventato un canale è completamente morto. Prima era un canile ed era affollato, adesso che è un canale invece è morto completamente. Ma non vera solo chi c'è un pignadro, canale. Erano tutti impegnati i canali. Adesso siamo quattro corri di gramma e non entrano i buchi. Ieri stavo facendo un'uria per sapere quante persone ci sono ancora rimaste in frequenza. Sono arrivato a 10, mi sembra che mi sono fermato a 9. E poi tra l'altro queste 9 persone le sentiamo saltuariamente, non è che le senti tutte in un giorno. Ma no, 10, 9, compresi anche quelli del canale 23, non solamente i 9, no, compresi anche quelli. E quelli fissi sono 2. E vabbè, comunque è vero che il tempo viene e passa, però mi sembra che è passato definitivamente qua senza rimedio. Questo è stato un passaggio senza ritorno. E io ogni tanto chiamo, ma se non entra niente. Io è perché sono qua che non posso camminare, cioè adesso la gamba che non riesce a tornare il sangue indietro e mi si è gonfiata, mi si gonfia il piede e la gamba a sinistra. Dimmi tu. Ma ieri non potevo mettermi manco la scarpa di quanto era gonfio. Ci credo, ci credo. E io mi sono mezzo slogato un ginocchio, invece portando la poltrona a casa. Ero messo male, ho voluto portare questa poltrona e invece ho fatto una sorta al ginocchio. Infatti mi fa male un po' il ginocchio. Ma comunque non sto zoppicando però, però già 3 giorni con oggi. Questo è già il 3° giorno e ancora mi fa un po' male. E anche io ho fatto una sorta all'altro piede. Quando sono andato a fare l'attacco manco a camminare riuscivo, mamma mia. Già c'ho quel difetto alla gamba, più c'avevo la sorta. Purtroppo i 20 anni li abbiamo sorpassati da un bel po' di tempo, per cui ogni giorno ce n'è una. Ogni arriva ne una. Tagliando questo rinnovabile sempre o natalino. Niente radio, ancora l'amico. C'è la portante fondo scala ma niente radio. Non ci sei buono, buttalo via, non se ne parla più. Mettene uno che funziona. Niente. A quest'ora io, se è questione di collegamento di Spinotto, ne avrei piantato una 15ina dei microfoni col mio sistema. Io altrettanto. Eppure l'ho spiegato decine e decine di volte come si deve fare per trovare subito in 5 minuti, ma 5 minuti veramente, di orologio per trovare il collegamento. Evidentemente ancora qualcuno non l'ha assimilato bene il sistema. Niente da fare, no. Lo fruscia. Quel microfono non ne ha voglia. È un microfono esaurito quello, ormai si è esaurito tutto. Peggio che mai, guarda. Tu la ricevi questa portante, Natali? Ehi, ti sto dicendo che è fondo scala. Appunto, lo sto dicendo anch'io. Io ho fatto 3 nomi poco fa, che solo quelli possono essere, per come mi arriva questo segnale, solo quelli. Uno di quei 3 ha provato. problemi di microfono o di radio, non lo so, comunque suppongo che sia microfono, perché l'unica cosa che facciamo noi tanto è cercare di collegare lo spinotto sempre, no? Ma da voi purtroppo non tutti ci arrivano subito, col tempo ci arrivano tutti, ma subito sono in pochi. Io ho sempre usato il sistema dello spettatore, no? Bocchettone alla radio, l'altro capo, spedati i fili, microfono, i fili dentro lo spinotto del microfono senza mai toglierlo, perché il microfono non lo deve mai togliere, scambiando i fili, in 5 minuti trovi il collegamento, sicuro, e sfido chiunque a dire di no. No, già è così. Io addirittura uso il tessere, vado a colpo sicuro, capito? Vabbè, il tessere non tutti ce l'hanno, anche col tessere è ancora meglio. Allora provi, prima col tessere provi, la portante provi, qual è la portante, e allora quando hai attaccato lo spessore al baracchino, unisci i fili e trovi già la portante, subito, prima di infilare addirittura. E sai che quei due puntali dove sono entrati, quelli del tessere ci devi mettere la portante, e già due fili li hai trovati a Maragana, e rimangono quelli della ricezione e transizione, è facilissimo. E infatti io faccio così, io li trovo tutti, io qua ci ho attaccato uno spezzone lungo, perché c'è il filo dell'MB più 4 che è corto, no? È rigido anche, e non ci sarei arrivato dove ho messo il microfono se non avessi usato uno spezzone, capito? Sì, ma io ce l'ho sempre corto, uno spezzone che posso attaccare sempre al baracchino, dall'altra parte non c'è niente, ci sono solo i quattro fili o i cinque fili spellati pronti da inserire dentro lo spinotto del microfono e trovi facilmente il collegamento in un attimo, ma veramente in un attimo. Ce l'ho sempre conservato io con la spezzone. Se dovessi usare una radio e voglio mettere questo stesso microfono, faccio sempre quel lavoro lì, 5 minuti ho trovato il collegamento, un pezzo di carta, faccio lo schermino, saldatore subito pronto, caldo e saldato, lo spinotto originale. E infatti, ma c'era l'amico che ha messo attorno la portante, no, non sta uscendo di radio. Infatti non sto uscendo, anche quando stavi parlando tu, ha mandato la portante, ma non esce. E la vedi? Sì, infatti è così. Luca, se sei tu con quel microfono, mandami un messaggio alla radio, al telefonino. Perché ancora hanno bisogno di decido, se sei tu. Se non sei tu vuol dire che è un altro. Non si fugge, vero, Rotari? No, ma non è Luca, pensano. Perché mi arriva a fondo scala la portante? Anche a me arriva a fondo scala, sempre quello. A me arriva a fondo scala. E chi può essere a fondo scala? A me a fondo scala mi arriva Luca. Mi arriva quell'altro amico che da poco è entrato qua, nella mia zona, e poi l'altro è Tino che mi arriva a fondo scala praticamente quando decide di fare così, se no mi arriva normale, ma se lui vuole mi arriva a fondo scala. Poi altri che possono essere, fammi fare memoria, nessun altro, guarda. A fondo scala non arrivano solo quei tre. Vabbè, Gianni mi potrebbe arrivare, ma Gianni era con lui poco fa, se che lui non poteva essere. Sì, infatti. Io devo preparare qualcosa per cucinare adesso. Tra un po' vado in cucina a fare il mio dovere. Va bene. Allora, buon pranzo e buon divertimento. Cucina poco e mangia assai. E se cucino poco non posso mangiare assai. Devo cucinare un bel e mangiare assai. Andare bene. Se no si cucina poco mi rimane da fame, da buio. E allora voglio fare una provocazione. La provocazione si si fa sempre al contrario, no? Se te la faccio liscia liscia, allora è normale, ma se te la faccio al contrario, ma il cugino già buono, ma già sai. E allora, così è, cosa dicevo lì? Cugino già un bel, ma già un bel. E così è normale, non ti ho detto niente, non ti ho provocato così. Ma io già l'ho capito, io ho fatto la controbattuta, no? Appunto. Vabbè, dai, comunque. Se devi chiudere, Natalino, non c'è problema, dai. Buon lavoro in cucina, allora. Eia, grazie per le quattro chiacchiere, giù. Salutami Gianni, se lo senti. Buon proseguo e buon tutto, dai. Me ne passo in cucina io, alle prossime. Ok, ciao ciao Natalia, alle prossime, dai. Buon pranzo allora, appena lo farai. Grazie altrettanto, ciao ciao. Attento Natalino, capa capa. Прогресс. 2, 7, 8, 2, 7. 8, 911.